2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:35 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire come la tecnologia ci sta cambiando la vita. Oggi parleremo in questa prima parte di frequenze televisive che diventano disponibili per il mondo della telefonia mobile, ma prima vorrei parlarvi della radio digitale. Di frequenze parliamo sempre. Giovedì ho partecipato a Torino nell'ambito del Pre-Italia, all'interno del quale tra l'altro Radio 24 ha vinto anche un premio molto prestigioso. Dicevo, ho partecipato ad un convegno sulla radio digitale. E visto che il tema interessa molti dei nostri ascoltatori, perché mi fa molto piacere, arrivano spesso email che ci chiedono aggiornamenti, allora vi do un aggiornamento anche se non ci sono molte novità. Tutte le emittenti nazionali e locali in Italia sono ancora in attesa del piano delle frequenze che deve essere elaborato dall'Autorità per le Comunicazioni e che dovrà riorganizzare, o meglio, organizzare l'etere in vista dell'avvio dei primi servizi commerciali anche in Italia. Stiamo parlando della radio digitale con una tecnologia e uno standard che si chiama DAB+. Il primo agosto, alcuni di voi lo ricorderanno, è partita una offerta di canali radio digitali in Germania, che così si aggiunge ad altri paesi che hanno lanciato servizi di radio digitali in Europa: Svizzera, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, che è stato il primo grande paese a lanciare servizi in tecnologia DAB. Quindi in Italia dobbiamo ancora aspettare. C'è chi ha abbozzato all'interno di questo convegno una data, o meglio un periodo per il lancio commerciale di questi primi servizi, ovvero la prossima primavera. Vi terremo sicuramente aggiornati, riparleremo di questo tema. Se vi interessa, vi ricordo e vi consiglio di riascoltare la puntata andata in onda il 6 agosto. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it nella pagina dedicata all'archivio di 2024, quindi entrate in 2024, poi archivio. Il 6 agosto abbiamo parlato dei nuovi servizi lanciati in Germania e abbiamo fatto anche un po' il punto della situazione. A proposito di frequenze, si è chiusa giovedì la prima parte dell'asta per le frequenze che finora erano assegnate al mondo televisivo, sulle quali nasceranno invece servizi dedicati molto probabilmente ad internet in mobilità. Saluto Alessandro Longo, un giornalista che è specializzato in questo settore. Alessandro, bentornato 2024. Grazie Enrico, saluto gli ascoltatori ovviamente. Dunque, ti chiedo subito se stiamo parlando delle frequenze di quel famoso dividendo digitale di cui si è parlato tanto tempo fa. Sì, infatti si è chiusa l'asta sul dividendo digitale, quindi adesso continua l'asta su altre frequenze, ma il dividendo digitale, cioè le frequenze della TV, sostanzialmente sono già state assegnate agli operatori mobili. Senti, questa prima parte di frequenze si è conclusa un paio di giorni fa, in che modo? Si è conclusa nel modo in cui, insomma, adesso ti racconto. I tre principali operatori, TIM, Wind e Vodafone, si sono giudicati tutte le frequenze del dividendo digitale, che è sugli 800 MHz, due lotti di frequenza ciascuno, Tre Italia nessun lotto sugli 800 MHz, però gareggia anche sugli altri lotti. Si è conclusa ieri anche l'asta sui 1800 MHz, in questo caso è stata H3G è riuscita, cioè Tre Italia è riuscita ad aggiudicarsi dei lotti già. Sì, adesso noi non entriamo nello specifico dei MHz, perché naturalmente ci sono differenze tra un tipo di frequenza ed un'altra, anche in termini poi di che cosa ci si può fare, però in generale queste frequenze che oggi vengono assegnate a pagamento, tra l'altro lo Stato incassa un sacco di soldi, quindi questo è un dato positivo per i cittadini, sperando che questi soldi siano poi spesi bene. Su questo torneremo anche tra poco. Dicevo, al di là delle technicalities, che cosa ci faranno gli operatori telefonici su queste frequenze? Tante cose, Enrico, ma in generale possiamo dire che queste frequenze serviranno per il lancio della quarta generazione di telefonia mobile, cioè anche chiamata Long Term Evolution LTE, che è già disponibile, come sappiamo, in Germania, in alcuni paesi della Scandinavia, negli Stati Uniti e in Giappone. Ecco, arriverà anche in Italia. Quando? Beh, le frequenze del dividendo digitale devono essere liberate dalle emittenti TV locali entro dicembre 2012, quindi gli operatori contano, diciamo intorno alla fine del 2012, di lanciare queste finalmente l'LTE, la quarta generazione. Su questo tipo di tecnologia, cioè fondamentalmente si possono offrire servizi di connettività ad internet, giusto? Sì, adesso in particolare serve per la banda larga in mobilità. Le velocità sono dello standard, molto teoriche, sono 100 megabit, però ecco, per dire, in Germania, dove è già disponibile, gli operatori prudentemente offrono 10 megabit. Il vantaggio di poter usare il dividendo digitale è soprattutto quello di poter raggiungere molte zone che finora sono rimaste escluse dalla banda larga in mobilità, perché sono frequenze molto basse, per questo motivo erano appunto usate dalla TV, ecco perché la TV si è storicamente presa le frequenze migliori, quelle che permettono di coprire tutto il territorio nazionale con un numero ridotto di antenne. Essendo basse, le frequenze penetrano facilmente, attraversano lunghe distanze e penetrano facilmente attraverso i muri, no? E quindi sostanzialmente la telefonia mobile ha bisogno di queste frequenze per finalmente portare la banda larga mobile ovunque, sì. Internet veloce ovunque, in movimento. Possiamo immaginare insomma, che l'alba di servizi che ci permettono di usare finalmente cose che facciamo a casa un po' ovunque senza soffrire. Sì, c'è chi dice, ma questa è solo una parentesi, che visto il passaggio al digitale terrestre del mondo televisivo, il dividendo digitale poteva essere ampliato e quindi poteva essere messa all'asta un numero maggiore di frequenze. Questo è un auspicio di molti, che avrebbe fatto bene anche allo Stato, ma purtroppo il peso della televisione in Italia è ancora sproporzionato rispetto al resto e quindi abbiamo dovuto accettare questo dividendo digitale così piccolo. Dunque, a proposito di telefonia, visto che stiamo parlando di servizi che arriveranno fra un po', tu ci hai citato insomma la fine del prossimo anno, parliamo di cose un po' più ravvicinate. Ci sono novità sul fronte dei pagamenti via telefonino, perché sono cambiate alcune cose dal punto di vista regolamentare, giusto? Beh sì, adesso si sono cambiate alcune cose a livello regolamentare, è vero, però per le novità in arrivo contano relativamente, perché le novità regolamentari in teoria permetterebbero agli operatori di essere un po' più autonomi rispetto alle banche nel lanciare servizi di pagamento mobile, però vista la complessità del servizio, gli operatori mobili italiani per ora, chissà per quanto tempo ancora, preferiscono comunque andare avanti con l'alleanza delle banche, e effettivamente sono qui le novità che adesso possiamo annunciare in anteprima nazionale, Enrico. Sì, infatti Vodafone questa settimana ha annunciato, non pubblicamente, ma tu hai letto i documenti che riguardano questo annuncio, entro l'autunno, quindi l'autunno è iniziato pochi giorni fa e si concluderà fra 3 mesi, quindi diciamo entro poche settimane, lancerà un servizio di pagamento via telefonino. Di che cosa si tratta? Bene, adesso una piccola premessa, permettimela. Adesso è possibile comprare alcune cose via cellulare, ecco, però non è possibile comprare oggetti fisici tramite credito telefonico, possiamo solo comprare beni digitali, no? L'applicazione, una canzone, eccetera, eccetera. Sì. Allora, questo sarà il primo servizio che ci permetterà di usare il credito del telefono, e qui intendo il credito prepagato oppure l'abbonamento, quindi con un debito in bolletta, che ci permetterà di utilizzare il credito telefonico per comprare qualsiasi cosa è acquistabile con una carta di credito. In altre parole, questo servizio si chiama Smart Pass, si chiamerà, ed è una carta di credito del circuito Mastercard, che però ha una particolarità, è la prima ad essere associata a un numero di telefono. Vuol dire che tutte le ricariche che io faccio su quel numero della carta, oppure le ricariche che faccio su quel numero di telefono, vado al tabaccaio, no, oppure attraverso internet, metto dei soldi su quel numero di telefono, oppure la bolletta, ecco, che ricevo a casa per le spese fatte su quel numero di telefono, tutti i soldi associati a quel numero di telefono valgono anche sulla carta. Allora io posso entrare in un negozio e pagare con la carta, e l'addebito avviene sulla bolletta telefonica o sul decurtando il credito residuo. Una particolarità: navigo con internet, su internet con il cellulare, mi trovo su un sito che accetta carta di credito, se sono utente Vodafone e ho attivato questo servizio, molti siti, ancora adesso non è possibile sapere quali, permettono di pagare con un click, cioè questi siti riconoscono che io sto navigando con un cellulare Vodafone con un certo numero di telefono e con il click avviene l'addebito sulla mia su questa smart pass collegata al numero di telefono, e posso comprare qualsiasi cosa ovviamente venduta da quel sito. Sì, ci fermiamo un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Sono le 15:47 minuti. Nella seconda parte di 2024 parleremo di social network. Ci sono molte novità annunciate da Facebook questa settimana e c'è una novità che riguarda anche Google Plus, che è stato aperto definitivamente al pubblico. Allora faremo il punto della situazione e vi invitiamo anche a chiamarci proprio su questo tema. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Se volete intervenire tramite SMS 349-238-6666, a proposito di Facebook, potete entrare anche nella nostra pagina su Facebook. Ultima domanda per Alessandro Longo, stiamo parlando di nuovi servizi di pagamento, questa è un'anteprima che vediamo, Vodafone ha annunciato che, non pubblicamente ancora, ma che lancerà a breve un servizio di pagamento associato ad una carta di credito che potrà utilizzare il credito telefonico anche per acquistare beni fisici e non solo digitali. Alessandro, non è un servizio uguale a quello annunciato e lanciato negli Stati Uniti da Google, il famoso Google Wallet? Purtroppo no, quello sarà il passo successivo che gli operatori prevedono nel 2012 in Italia, cioè entrare in un negozio, avvicinare il mio cellulare al lettore Bancomat e pagare con un addebito automatico, sostanzialmente grazie a una tecnologia che si chiama NFC, cioè anche in italiano NFC viene chiamata, sì, Near Field Communication, sì. Near Field Communications, è una tecnologia di pagamento contactless, senza contatto. Questa carta di Vodafone effettivamente ha già il chip NFC, però al momento chiaramente non sono molti i negozi che ci permettono di pagare in questo modo, siamo ancora agli albori. Prematuro, diciamo che bisogna fare un passaggio successivo anche dal lato appunto del cassiere, perché i POS dovranno essere trasformati. Alessandro, ti saluto, ti ringrazio, buon lavoro, a presto, buon weekend. Grazie, ciao. Abbiamo parlato di frequenze poco fa e dell'incasso che lo Stato farà dall'asta che si sta svolgendo. Visto che le cose stanno andando meglio del previsto, Assinform, che raggruppa le imprese dell'information technology in Italia, propone di utilizzare quei soldi, una parte di quei soldi, per modernizzare la pubblica amministrazione. Ma partiamo da alcuni numeri pubblicati in settimana che riguardano il mercato ICT in Italia: 550.000 addetti, 60 miliardi di fatturato. Giacomo Segantini ne ha parlato con Paolo Angelucci, che è presidente di Assinform. A inizio anno avevamo dato una previsione di lieve crescita, proprio considerando gli ottimi risultati dell'ultima parte dell'anno scorso e le prospettive che ci venivano dichiarate dai nostri associati. Man mano la situazione ha rallentato, a giugno abbiamo dato una forbice che stava a cavallo dello zero. Purtroppo adesso abbiamo ipotizzato una decrescita del settore IT che va da meno 1,2 a meno 2,8, quasi 3%, e quella del settore TLC che va da meno 1,5 a meno 4. Sono numeri purtroppo in decrescita costante ormai da un po' di tempo, e questo ci preoccupa perché l'ICT è il motore dello sviluppo. In tutti gli altri paesi l'ICT, al contrario dell'Italia, è in crescita, in particolare l'IT che sviluppa tutte le possibilità delle imprese. C'è una domanda di diffusione tecnologica che sta prendendo piede. Purtroppo la spesa globale diminuisce anche per il rallentamento di alcuni investimenti che in questa fase dell'anno sembra essere dovuta alla situazione internazionale. Ecco, infatti voi lanciate un grido di aiuto per quanto riguarda la crisi e soprattutto per quanto riguarda quello che è stato l'impatto della recente manovra, mi sembra di capire, cioè un settore strategico come quello dell'IT, di cui tutte le imprese hanno necessità, anche un'impresa che vende qualsiasi tipo di prodotto per poter competere efficacemente sul mercato. Quello che state dicendo, mi sembra di capire, è che gli investimenti vengono trascurati in quest'area. Quello non tanto di cui ci lamentiamo, ma che stiamo chiedendo è che adesso si trovino, perché si possono trovare, le risorse per lo sviluppo non tanto di questo settore, quanto di tutto il paese. Per esempio, noi abbiamo chiesto due cose molto semplici. La prima è che si stabiliscano delle regole per facilitare gli investimenti in information technology nelle imprese, perché in questo modo le imprese diventano più efficienti e possono competere meglio, particolarmente sui mercati esteri. Il secondo punto, che invece è abbastanza innovativo e soprattutto è immediatamente realizzabile, è la richiesta di utilizzare una parte, diciamo 300 milioni di euro, della surplus che è stato realizzato dalla frequenza delle aste LTE. Stiamo parlando delle frequenze liberate dal passaggio delle televisioni sul digitale e che poi verrebbero appunto acquistate per dalle aziende di telecomunicazioni. Stiamo parlando di queste frequenze? Queste frequenze, esatto. Attualmente il ricavo della vendita è di più di 3,7 miliardi di euro a fronte di una previsione iniziale di incasso di 2,4. Quindi c'è un surplus di 1,3 miliardi che non può non essere impiegato nel miglioramento delle capacità tecnologiche dell'Italia. Ecco, una parte di questa, abbiamo ipotizzato 300 milioni, dovrebbe essere utilizzata solo dalla pubblica amministrazione, quindi non stiamo chiedendo investimenti per le imprese, ma dovrebbe essere utilizzata per i processi di dematerializzazione, cioè per far girare meno carta. Abbiamo calcolato che se ci fosse questo investimento, le imprese a loro volta investirebbero 5 volte questa cifra, quindi 1,5 miliardi, rendendo tutto il sistema enormemente più veloce, preciso e soprattutto con possibilità di risparmi estremamente consistenti nel campo della spesa pubblica e delle imprese. Lei pensi solo alla recente battaglia quasi vinta ormai dei certificati medici dematerializzati, quella va finita permettendo alle imprese di riceverli in tempo reale. Di questi casi se ne possono citare a decine. Lei pensi solamente al concetto del pagamento delle multe o delle cartelle delle tasse, che ancora viaggia molto spesso per quando è andata a mano. Era Paolo Angelucci, presidente di Assinform, intervistato da Giacomo Segantini. E diceva bene Angelucci, lui lo dice soprattutto perché rappresenta l'industria dell'ICT in Italia, ma è comunque un dato di fatto che le tecnologie, tutto ciò che aiuta a digitalizzare i processi industriali e anche in questo caso, come diceva, a far scomparire la carta, sono uno straordinario motore dello sviluppo economico, ma ormai ci sono tantissime ricerche che lo dimostrano. Questo è 2024, riprendiamo tra poco dopo le notizie di GR24, parleremo di un servizio che è stato lanciato da Tiscali, un servizio che permette di scambiarsi messaggi e telefonare gratuitamente su internet, che si chiama Induna, con due O, un termine sardo che significa tutto insieme, ma soprattutto dedicheremo la seconda ora del nostro programma al mondo dei social media, dei social network. Parleremo di Facebook, della novità, ce ne sono molte che sono state annunciate alla conferenza dedicata agli sviluppatori che si chiama F8 un paio di giorni fa, e parleremo anche di Google+, cercheremo di capire quali sono i pro e i contro, le cose belle, divertenti dell'uno o dell'altro. Vi invito a chiamarci in diretta, numero verde 800 24 00 24, oppure se volete scriverci via SMS 349 238 6666 o c'è anche la nostra pagina Facebook, andate su Facebook e cercate 2024. Riprendiamo dopo le notizie del giornale radio. 2024. Riprendiamo, questa è la seconda parte di 2024, sono le 16:07, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, tra poco parliamo di social network, sicuramente buona parte dei nostri ascoltatori vivono anche una parte della propria vita all'interno dei social network, molti su Facebook, perché pensate che in Italia cifre più o meno confermate ci dicono che sono 12-13 milioni gli utenti di Facebook solo in Italia. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Marco Zamperini, bentornato a 2024, ciao Marco. Ciao Enrico. Marco Zamperini è, oltre che un esperto di social media, a proposito, tu vivi parecchia parte della tua vita sui social media, su Facebook. Continuamente. Perché se non c'è un computer, c'è il telefono, lo smartphone. C'è il telefono, c'è l'iPad, c'è qualche occasione di connettività, la trovo comunque. Tu fai tutto ciò sia per divertimento, ma anche per lavoro, perché tu sei, come si dice in gergo tecnico, il CEO o il CIO, il Chief Innovation Officer di un'azienda molto nota in Italia che è entrata a far parte di un gruppo giapponese da poco, all'interno del gruppo Entity Data, che è Value Team. Quindi studi tutto ciò anche per capire come gira il mondo. Assolutamente. Allora, tra poco con Marco Zamperini e anche con Christian Esser, che è collegato con noi da Amsterdam, se non sbaglio. Christian, bentornato a 2024. Sì, ci sono. Ciao, ciao Enrico. Sei ad Amsterdam? Sono ad Amsterdam e c'è un sole che ti giuro è fantastico. Quindi non sembra nemmeno Amsterdam, potremmo dire. Ah, ma è bella, è bella. Allora, tra poco assieme a Christian Esser e a Marco Zamperini parleremo di social network, di social media, perché ci sono parecchie novità che sono state annunciate questa settimana ed è bene fare il punto della situazione. Chiamateci anche per dire la vostra su questo tema al nostro numero verde 800 24 0024, il nostro numero gratuito, che è gratuito anche dai cellulari. Ogni tanto qualcuno mi scrive e dice: ma è gratuito davvero? Prima di parlare di social media, vorrei parlarvi di una novità lanciata da Tiscali, una novità italiana, simpatica, un piccolo programmino che può, beh, può sembrare, è molto simile a Skype, si può scaricare gratuitamente su computer o smartphone. Ce ne ha parlato Luca Scano, che è direttore generale di Tiscali. Induna è molto semplicemente un'applicazione multipiattaforma che consente da molti device, che possono essere l'iPhone, l'iPad, il computer, quindi sia nella versione PC che nella versione Mac, e dai telefonini Android, quindi tendenzialmente da smartphone e da PC, di poter comunicare, quindi tramite telefonate, messaggistica e videochiamata. Quindi in buona sostanza cosa fa Induna? Induna porta sul telefonino l'esperienza della comunicazione, una comunicazione integrata, in buona sostanza senza per questo dover sopportare i costi della telefonia cellulare. Quindi si tratta in buona sostanza di un'estensione della linea fissa agli smartphone primariamente, e questa esperienza è stata anche estesa al PC. Attualmente noi con il nostro smartphone utilizziamo il telefono cellulare anche molto spesso quando si trova in prossimità di una rete wifi. Tramite Induna la persona può verificare se i propri contatti sono online e comunicare con questi gratuitamente. Per quale motivo voi lanciate un'applicazione di questo genere? Voi siete un operatore di telecomunicazioni, che cosa vi spinge a proporre un'applicazione di questo genere? Cioè, dove sta per voi il business? Ci sono due tipi di considerazioni che vanno fatte. Prima di tutto è sicuramente, noi abbiamo sempre visto la telefonia mobile e la telefonia fissa come due mondi che prima o poi devono andare a convergere. Essendo noi nell'ambito della telefonia fissa, dobbiamo cercare di avvicinare la telefonia mobile alla telefonia fissa, quindi integrando, consentendo alla persona di poter utilizzare l'iPhone in modalità Wi-Fi e di comunicare tramite Wi-Fi. Quindi in buona sostanza cerchiamo di entrare in quella nicchia di mercato, consentendo al cliente al contempo di fare un risparmio. Inoltre c'è una questione di innovazione e di brand. Questo è una testimonianza della continua spinta, del continuo impegno di Tiscali nell'innovazione tecnologica, che deve essere essenzialmente a servizio del cliente. Beh, se volete provare questo nuovo servizio, www.induna.com con due O, una parola sarda che significa tutto insieme, un servizio gratuito, una novità. Tiscali, giusto per la cronaca dichiara 120.000 clienti attivi, SIM attive in telefonia mobile, perché Tiscali è uno degli operatori virtuali italiani, quindi che offre anche servizi di telefonia mobile oltre che di telefonia fissa. Sono le 16:12 minuti, la viabilità, poi parliamo di social network. 2024. Questa settimana ci sono stati due eventi che ci hanno consigliato, suggerito di parlare di social network. All'inizio della settimana Google ha annunciato di aver aperto a tutto il pubblico della rete Google Plus, che è il social network di Google, e Facebook ha annunciato una serie di novità. Addirittura sono state annunciate come le più importanti novità da quando esiste Facebook, direttamente da Mark Zuckerberg, che è il fondatore del più grande social network al mondo. È con noi Marco Zamperini, come vi dicevo poco fa, che vive buona parte, lui ha detto addirittura sempre, sui social media. Tu Marco, che diciamo in rete sei molto conosciuto, ma anche i nostri ascoltatori ti hanno già ascoltato alcune volte, come consideri questo mercato? Soprattutto perché sembra che ci sia una vera e propria battaglia. Facebook ha fatto un successo incredibile e molti stanno provando a combattere questo successo, e penso che non sarà facile. Ma cosa sta succedendo? Ma direi i motivi di questo movimento di grandissime aziende, perché poi stiamo parlando di grandi aziende che mettono in gioco grandissimi capitali, è conquistare lo spazio della pubblicità, del futuro della pubblicità. È opportuno ricordare agli ascoltatori, che magari hanno la percezione correttamente dell'utente di questi servizi, che quindi li vede come servizi fondamentalmente gratuiti, no? E dice molto bello. In realtà questi servizi costano un sacco di soldi a chi li gestisce. Ovviamente non lo fanno per filantropia, lo fanno per ottenerne dei ricavi. Allora Google per diversi anni è stato il leader incontrastato della raccolta pubblicitaria tramite il motore di ricerca. Questo non è più sufficiente, perché nel frattempo sono arrivati i social media, è arrivato ad esempio Facebook. Ricordiamo agli ascoltatori che Facebook ormai ha raggiunto la quota rispettabile di circa 800 milioni di utenti al mondo da computer, e ormai di quasi 300 milioni di utenti da telefono cellulare, che anche questo è un dato molto importante. Sì, ora, tra l'altro è incredibile come sia complesso gestire, adesso non tutti contemporaneamente sono online, però alcuni ascoltatori che usano Facebook avranno notato a volte dei rallentamenti, perché immagino che macchine colossali siano necessarie per gestire così tanti milioni di utenti. Certo, e tu non hai idea di che macchine sono necessarie a Google per darti così rapidamente i risultati quando tu fai una ricerca. Google è uno dei più grandi consumatori di energia al mondo, date l'enormità dei data center che deve gestire. Allora, cosa succede? Ormai c'è un'evidenza di mercato, gli analisti divergono leggermente sulle date, però c'è un'evidenza che nel, diciamo, tra 2-5 anni la maggioranza delle vendite di beni e servizi online passerà certamente attraverso i social media, attraverso le applicazioni mobile. Questo è il primo motivo per cui ci sono degli investimenti così importanti in atto. Facebook, anche perché è stato per qualche anno, soprattutto all'inizio, abbastanza sottovalutato dalle grandi aziende, ha avuto buon gioco nel costruirsi una base di utenti enormi, è sicuramente il leader. Google, che ha delle importanti masse di capitale, una liquidità e una capitalizzazione decisamente interessante, anche in un momento di crisi globale come questo, è sicuramente uno dei pochi che possono effettivamente contrastare o comunque andare a occupare la sua fetta di mercato, no? Quindi è chiaro che Google prevede che le sue revenues di pubblicità, le sue entrate da pubblicità attaccate al motore di ricerca scendano, e quindi cerca di costruire l'alternativa per il futuro. Google Plus, dal punto di vista di Google, è certamente un tentativo di occupare questo spazio. Vorrei chiedere a Christian Esser se ci spingiamo ancora un po' più in là. Addirittura c'è chi prevede che il motore di ricerca del futuro sarà il social network, e questo forse è anche uno dei motivi per cui Google sta cercando di entrare in questo segmento. Condivido pienamente, perché il prossimo Google siamo noi persone, perché non è più un algoritmo, ma è un insieme di esperienze che noi facciamo a livello individuale, che poi dividiamo con tutta la gente intorno a noi. E per questo vedi anche che, anticipo forse un attimino sulle alcune domande, ma per questo vedi che anche Facebook in questo momento, con i cambiamenti che vogliono fare, secondo me i cambiamenti sono principalmente vengono dall'esigenza di voler avere più correlazione e più più semantica nell'informazione che riescono a chiedere a tutti i loro utenti. Quindi tu dici questo, poi così entriamo anche proprio nel dettaglio delle novità annunciate da Facebook, questo tentativo di far vivere più intensamente le cose che uno fa in rete, non in spazi diversi, diversificati, ma tutto all'interno di Facebook. Esatto. Noi produciamo moltissima informazione, e la cosa più interessante e più difficile in questo momento è trovare un modo per correlare tutta questa informazione. Vogliamo l'informazione giusta al momento giusto. L'informazione che hai prodotto, per esempio, 2 mesi fa su Facebook, in questo momento non la vedi più. O la vedi in modo difficile. Loro cercano di collegare tutte queste cose, incluso anche il fatto di agganciarsi a piattaforme esterne, molto importante per far sì che tutta l'informazione torni su un posto, e da quel punto di vista commerciale è molto interessante anche. Sì. Fra un attimo, Marco, ti chiederei di spiegarci quali sono le novità principali, però volevo chiedere un parere a Christian. Google Plus ti piace? Può fare effettivamente concorrenza a Facebook? Guarda, come ha detto Marco, loro sanno assolutamente e capiscono l'esigenza di dover cambiare verso persone. Hanno la possibilità di investire parecchi soldi in una piattaforma come Google Plus, e hanno anche assolutamente, a mio parere, il grandissimo vantaggio che là dove Facebook deve cercare alleanze con ditte esterne per offrire musica, per offrire film, per offrire immagini, per offrire posizionamento, eccetera, eccetera, Google può farlo da sé. Certo. Quello è un vantaggio non indifferente. Certo. Entrando nello specifico, qui raccontiamo qualcosa a chi un po' Facebook lo conosce, Marco, quali sono le novità principali che sono state annunciate da Facebook questa settimana, due giorni fa? Ma direi che quella che ha anche colpito di più l'immaginario, no, degli utenti, è la timeline, appunto, che Facebook ha chiamato in questa maniera. Allora, c'è un concetto di cui c'era già un'evidenza un po' in tutti i social media, che uno degli elementi che mancava a Facebook era in qualche maniera dare agli utenti un'evidenza del proprio live stream, no? del proprio flusso vitale, sì, così, del diario che uno sì, personalmente così, fa. Così come si sviluppava nei social media, perché se è vero che questo sviluppo così impetuoso dei social media ha di fatto, almeno dal punto di vista concettuale, determinato la morte dei blog, così come li intendevamo, no? Ormai tutti i grandi comunicatori alla fine sì, tengono magari anche un blog, ma come puntatore alla loro identità digitale, ma fondamentalmente la conversazione, la storia si sviluppa dentro i social media, prevalentemente dentro Facebook, che ormai infatti è stato raggiunto anche dalle aziende. Allora, è molto interessante, perché la rivoluzione informativa che stiamo vivendo alla fine riguarda non tanto le tecnologie, che sono sempre più seamless, sempre più trasparenti dal punto di vista degli utilizzatori, ma riguarda appunto le relazioni, no? E rendere esplicite le relazioni del mio presente, ma anche del mio passato, quindi quello che ti consente di fare timeline, che in questo momento è disponibile per gli sviluppatori, e come sai moltissimi utenti si sono finti sviluppatori per poter accedere, non sono tutti sviluppatori, sono tutti sviluppatori, sì. Che comunque è un risultato meraviglioso dal punto di vista di Facebook, ovviamente, no? È un po' come quando si annunciano i prodotti in beta ristretta, e cresce la voglia di esserci, quindi già è una prima metrica del fatto che c'è comunque grande attenzione attorno a quelle che sono le novità. A me, devo dirti, piace anche abbastanza come la realizzazione che è stata fatta, perché comunque ti consente di vedere tutta la tua storia, la storia delle tue attività, ed è anche curioso delle volte vedere come nel corso degli anni hai cambiato l'immagine del tuo profilo, cioè come tu ti proponi agli altri, come usavi prevalentemente, vedere chi sono gli amici che ti hanno de-amicato, perché anche questi, no? sono le cose. E ovviamente questo, se è divertente dal punto di vista dell'utente, genera un valore mostruoso, no? Per chi ha le leve ed è in grado di fare delle analisi su questi dati, perché effettivamente riesce a costruire il grafo sociale. E io mi auguro che questi dati, tra l'altro, siano resi disponibili almeno all'Accademia, perché ci sono effettivamente, c'è un tesoro dal punto di vista del sociologo, no? Per capire come nel mondo di oggi si sviluppano effettivamente le relazioni. Ti faccio un esempio triviale: tra le giovani generazioni è diventato costume definire all'interno di Facebook delle relazioni parentali tra di loro. Quindi io con il mio compagno di scuola, compagno di casa, dico che lui è mio fratello, ad esempio, dico che è mio, o addirittura, se gli voglio molto bene, se è il mio amico del cuore, dico che sono sposato con questo amico. Ovviamente questo ha un significato altro rispetto a quello della relazione parentale, però sta a dire che ho un livello di relazione più intenso, no? Che è quello che in qualche maniera anche Google ha recepito e ha cercato di implementare con le cerchie, no? Consentirti, Google Plus, sì. No? Consentirti di dividere in qualche modo, definire dei gruppi, sì. Verso i quali indirizzare contenuti differenziati. Giustamente, per attrarre, per farti rimanere più tempo collegato, tenendo conto che già la media delle sessioni in Facebook è abbastanza lunga, perché mentre su un sito web ormai si sta minuti, su Facebook si sta in media tre quarti d'ora, quindi, come dire, è una frequentazione molto alta, ma loro ne vogliono di più per esporti di più, certo, dei messaggi, certo, pubblicitari. E quindi, ad esempio, una delle novità è l'integrazione con Spotify, no? Che è un servizio che purtroppo in Italia non è ancora disponibile nel nostro paese, ma è un servizio che consente, ad esempio, di fare streaming musicale al tuo profilo, quindi di fare anche social recommendation, appunto. Cioè, spieghiamo come potrebbe funzionare. Cioè, io sto ascoltando una canzone su Spotify, esatto, sono contemporaneamente collegato a Facebook e ho l'applicazione Spotify su Facebook. E quindi dico ai miei amici: senti anche tu che bella questa canzone. Questo genera una relazione, funziona come una raccomandazione sociale, esattamente come nella vita. Voglio dire, compra quella lavatrice, esatto, perché è buona. Esattamente come nella vita. Questi meccanismi, torno a dire, l'abbiamo già detto altre volte, funzionano molto bene, perché sono mimici della vita reale, no? In generale, io mi fido dei consigli dei miei amici, soprattutto dei miei amici ai quali riconosco un'expertise di qualche tipo. Per cui, se so che tu sei il mio guru musicale e mi dici, ascolta, certo. Ascolta questo brano, non solo lo ascolto, ma la possibilità che poi proceda all'acquisto è decisamente elevata. Sì. Esattamente come se tu, identificandomi come guru tecnologico, mi chiedi un consiglio su un nuovo terminale da acquistare. Esatto. Vi ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarci per parlare di Facebook, ma non solo di Facebook, di tutto quello che sta accadendo attorno ai social media, 800 24 0024. Ci sono alcuni messaggi che ci chiedono informazioni su alcune novità di cui abbiamo parlato, quindi vi siete persi o le puntate precedenti o un pezzo della puntata di oggi. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Christian, vorrei chiederti, gli utenti sono accorti di tutto ciò, di essere diciamo nel mirino anche delle aziende, in primis di queste aziende grandi come Facebook e Google, ma un po' di tutte le aziende, come catalizzatori di attenzione all'interno dei social network? Sì, io penso che noi diventiamo sempre più intelligenti anche nell'uso di questi social network. Sappiamo anche quello che facciamo e a volte facciamo anche deliberatamente dei spostamenti, delle cose per far sì che ci sia più attenzione anche nei nostri confronti, e se a noi viene anche aggiunto un marchio, per esempio, vedi che può succedere che gente si promuova un marchio in, per avere a sua volta dei vantaggi. Ma prima di andare avanti su questo, volevo dire ancora una piccola cosina su in riflessione anche. Sì. Che questi nuovi sviluppi su Facebook sono anche un attacco su quello che noi conosciamo come il nome televisione. Questa cosa l'abbiamo già detta probabilmente parecchie volte, però la cosa che rimane nella televisione è il programma live, la partita di calcio per esempio, perché è un momento in cui tutta la gente vive la stessa cosa e partecipa in quel sentimento insieme nella camera, nel salotto per esempio, o nel bar o da qualche parte. Questa cosa di vivere una cosa insieme la introduciamo, e la introduce anche Facebook in questo momento, sempre di più online, perché avete parlato di Spotify, la possibilità anche di dividersi dei video in tempo reale e allo stesso tempo parlare o chattare su questo video, sono prodotti che vengono sempre più avanti, sia da Facebook, ma per esempio qui in Olanda, dalla KPN, che è la telecom olandese, anche loro iniziano già adesso con questo tipo di prodotti. Guarda insieme, chatta insieme e vedi questa cosa live su internet insieme e dividila con gli amici. Adesso sono le 16:29, abbiamo un pizzico di pubblicità, riprendiamo tra poco anche con alcuni ascoltatori che ci stanno chiamando al nostro numero verde. A tra poco. 2024. Stiamo parlando di social network a 2024. Questa settimana sono state annunciate alcune novità che potete osservare nel dettaglio su internet. Noi ve ne abbiamo raccontate alcune per farvi capire cosa sta succedendo e come i social network stanno cambiando. Sicuramente uno dei trend è quello di cercare di trattenere sempre per più tempo le persone online, cercando di creare maggiori relazioni, più intense relazioni tra gli utenti. Il nostro numero verde è 800 24 0024. Ci sono altri modi per raggiungerci, anche la nostra pagina Facebook, ma essendo noi alla radio preferiamo sentire la vostra voce. Allora sentiamo Enrico che ci telefona da Modena. Buongiorno. Buongiorno, sì, mi chiamo Enrico e sono di Modena, ho 39 anni e faccio il fotografo. Sì, Enrico. Il mio problema con Facebook, dal quale mi sono staccato, è che opinioni e altre idee mie alla fine diventano di pubblico dominio e magari mi trovo qualche cliente, fornitore che rientra in una condivisione in qualche modo, magari non è della stessa idea e potrei avere magari dei problemi su questi aspetti. Quindi dei due è sempre meglio non far entrare aspetti politici o pensieri liberi su una cosa che è di pubblico dominio. Mm. La seconda cosa è che sì, è vero, uno può condividere musica, si condivide tutto oggi, però la gente alla fine non parla, non si sa come mai, ci sono sempre più problemi di comunicazione tra i giovani, dicono, però poi alla fine sono tutti social, tutti online, però alla fine di base i problemi restano sempre quelli, cioè le persone non parlano abbastanza e non si sa chi è il vicino di casa. Sì, anche questo è vero. Prima di sentire Claudio che ci chiama da Vicenza, volevo sentire Christian Esser e poi anche Marco. Io ricordo che tu, Christian, ad un evento avevi detto alcune cose capitano più spesso, alcune remore sono più tipiche degli italiani rispetto ad altri paesi. Forse quello che dice Enrico, cioè di non mettersi troppo in mostra perché magari quell'altro potrebbe pensare una cosa negativa, tipicamente. Io condivido alcune cose di Enrico, non solo perché anch'io mi chiamo Enrico, ho 39 anni, anch'io sono di una zona insomma vicina a Modena. Però Christian, dicevo, è colpa degli italiani? Sì, guarda, paesi diversi, mentalità diverse, gente diversa. Alla base siamo tutti uguali, però ci sono le sfumature che sono diverse. Io al tempo ho detto che social network in Italia prendono meno, come si dice, sono meno forti perché in Italia c'è più da nascondere che in altri paesi. Diciamo, è un po' esagerato, però... io condivido il fatto che non è solo online che noi dobbiamo vivere, ma è assolutamente anche offline. Però online dà a un certo, in un certo modo la possibilità di scoprire nuove possibilità che altrimenti non hai, perché hai la possibilità di avere l'informazione di un gruppo di persone molto più vasto di quanto tu possa fare nella vita offline. Di conseguenza, ti può aiutare, e in certi casi, se sei molto aperto nel modo di pensare diverso, sì, può essere che qualcuno ti venga ti ritorni con un'idea a sua volta meno interessante per te, però puoi anche trovare tantissima gente che ti condivide, insieme puoi vedere come arrivare a fare grandi trasformazioni. Sì, sì. Io penso anche che stiamo parlando di un fenomeno così nuovo che forse un po' tutti ci dobbiamo abituare, ad esempio cercando di sparare meno stupidaggini. Ad esempio, Marco. Ma allora, questo è qualcosa che cerchiamo di insegnare ad esempio ai giovani, no? Cioè il punto è un utilizzo consapevole, e il fatto che ci piaccia o meno, una diffusione a questi livelli dei social media, di internet, della vita online, abbatte in qualche maniera effettivamente il diritto all'oblio, no? Per cui, come dire, imparare a usare con buon senso, direi, fondamentalmente, questi media, grazie anche al fatto che ormai i social network comunque mettono a disposizione tutta una serie di filtri, per cui io direi in generale attenzione a quelli con cui condividiamo le informazioni, no? Sia, restiamo sull'esempio di sia Facebook che Google Plus, ce lo consentono in maniera anche molto semplice, sì, no? Di delimitare gli ambiti di condivisione, no? Senti, io dicevo, anche io mi chiamo Enrico, 39 anni, ma è un problema anche di età? Ma allora, cioè, una statistica interessante per cui in Italia gli utenti di Facebook hanno un'età media di 38 anni, no? Questo vuol dire è molto alta, perché in realtà noi spesso ce lo dimentichiamo, però la popolazione online non è fatta soltanto della popolazione attiva, no? O dei giovani, ma è fatta anche da tanti anziani. Noi siamo un paese di vecchi. Per esempio, attivissimi online sono anche le donne in attesa, per esempio, no? Che magari hanno, negli ultimi mesi della gravidanza, i primi mesi dopo il parto, hanno più tempo e sono particolarmente attive online. Gli anziani comunque, man mano, visto che la barriera all'ingresso è molto bassa, è molto semplice utilizzare questi strumenti, cominciano sempre di più a connettersi. I giovani non possono in qualche maniera farne a meno. E qui questo è un elemento interessante anche di riflessione, no? Il fatto della, in qualche maniera, è difficile, è veramente difficile, perché richiede coraggio anche dal punto di vista sociale, perché vuol dire dichiararsi sostanzialmente un emarginato, chiamarsi fuori dalla conversazione online, che ormai ai ragazzini, agli adolescenti ad esempio, serve a qualunque cosa. Serve certamente al cazzeggio, sanamente, visto che sono giovani, sì, certo, ma gli serve anche, ad esempio, a scambiarsi i compiti per la scuola, piuttosto che a organizzarsi il divertimento, sì, nel mondo reale. Non usano le email, poco. L'email è definitivamente, e io dico per fortuna, morta. Beh, no? Adesso perché... non esageriamo. No, assolutamente. Ah. Io ti dico... Facciamo una puntata su questo. Comunque, sì, sì, vorrei dare solo un dato. Ci sono già alcune università americane che hanno smesso di distribuire gli account di posta elettronica agli studenti, data la loro non utilità, perché ormai vabbè, poi ne parliamo. Facciamo una puntata. Sì, sì, okay. Ce la segniamo. Claudio da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Claudio da Vicenza, ho 36 anni e volevo fare un appunto velocissimo. Intanto complimenti per la trasmissione che vi ascolto costantemente. Grazie molto. Due appunti velocissimi. Il primo, sono d'accordissimo con il ragazzo di Modena che era intervenuto prima per quanto riguarda la condivisibilità di tutto in maniera così estremamente facile. Soprattutto io punterei l'attenzione, e sono particolarmente un po' sconvolto, da come effettivamente sia facile scaricare le foto di qualunque persona che sia iscritta a Facebook. C'è proprio un tasto dedicato con scritto scarica foto. Uno schiaccia quel tasto e può condividere e salvare sul proprio PC le foto di chiunque. Addirittura, secondo me, a questo punto mancherebbe solo un tasto con scritto crea un falso profilo con questa immagine, mancherebbe solo questo e poi siamo, penso, al top. Questo era un po' il primo punto che volevo mettere in luce, perché mi pare un po' assurdo e paradossale. Però sei d'accordo quando diciamo, e abbiamo detto, che esistono comunque dei filtri per, diciamo, migliorare la propria privacy online, cioè non mettere a disposizione nulla, e forse pochi li utilizzano, questi filtri? Probabilmente probabilmente allora sono poco pubblicizzati, mi sa, perché per esempio fino a qualche settimana fa mi risulta che almeno per quanto riguarda proprio i miei amici reali, quelli appunto nella vita vera, pochi sapevano che anche il numero di cellulare veniva comunque inserito di default negli elenchi di Facebook. Beh, vabbè, però quindi qualcuno gliel'avrà pur messo e sono stati loro a metterlo, quindi ad un certo punto se uno mette online certe cose deve anche preoccuparsi di dove vanno a finire. Secondo punto. Secondo punto, questo probabilmente è un malvezzo che un po' sia i social network hanno comunque contribuito molto qui. Nella vita reale molto spesso siamo proprio influenzati da come proprio dialoghiamo su Facebook, e tutto questo poi influisce pesantemente. Mi è capitato, per esempio, per motivi di lavoro, di sentire una conferenza di un avvocato in cui questo avvocato proprio platealmente diceva: ho incontrato alcuni miei clienti offline, intendendo dire che lui fa consulenze a tu per tu, che dovrebbe essere la cosa effettivamente reale. Chi l'ha detto, cioè, però? Io non sono... adesso è successo così, però non è detto che poi nel futuro possa cambiare. Claudio, se non c'è un terzo punto, noi ti salutiamo. Sì, va bene, grazie. Grazie di aver chiamato del contributo. Prima della viabilità, poi magari rispondiamo, Marco, assieme, sì, a Christian, sentiamo anche Gianmarco che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza, e se si dice solo Monza, quelli della Brianza si offendono, se diciamo l'inverso. Quindi, Gianmarco, buongiorno. Buongiorno, anche io mi complimento per la trasmissione che cerco di ascoltare, sempre in macchina devo dire, perché in quest'ora giro. Dunque, io sono 60 anni, ma da sempre pratico l'informatica, lavoro in particolare nel web marketing e mi sto ponendo un problema, diciamo ultimamente. Facebook come raccoglitore di pubblicità è un qualcosa di estremamente recente. Devo dire che nell'ultimo anno si incominciano a investire campagne non ancora a livello di Google, però diciamo di un certo peso. Fino all'anno scorso, devo dire, era trascurabile l'investimento che si faceva su Facebook. Adesso sicuramente non si può fare a meno. Ma io mi chiedo una cosa, Facebook è da tanti anni operativo, ci sono in questo momento 350 milioni di persone con Facebook davanti alla loro faccia, e sui 700 milioni che si dice siano gli iscritti, ma soltanto dal punto di vista investimenti, hardware, banda, eccetera, eccetera. Chi è che paga effettivamente Facebook? Questo è un dubbio che mi sta... Cioè lei dice la pubblicità non basta? No, assolutamente non basta. Potete chiederlo a... Cioè lei dice dietro c'è la CIA che no, ci vuole... Sì, la CIA, dico che sicuramente ci sono grossi investimenti finanziari, perché si fa in fretta a fare i conti, 700 milioni di persone, delle quali 350 mila online, sempre, costantemente, quanto consumano e quanto devono avere in termini proprio di capacità di memorizzare video, dati, fotografie, eccetera. Grazie. Bene, grazie Gianmarco di aver chiamato, perché il punto è interessante. Adesso c'è, in base al nostro palinsesto, la viabilità, le informazioni che arrivano da strada e autostrada. Riprendiamo tra un minuto. 2024. L'ultima parte, come dicono alcuni, l'ultimo slot del nostro programma, questo è 2024. Vi ricordo che, come sempre, la nostra puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast all'interno dell'offerta podcast di Radio 24, quindi andate sul nostro sito www.radio24.it, cliccate su 2024 oppure cliccate su podcast e ci trovate attorno alle 5.30, 5.45. Dipende quanto tempo io parlerò dopo la trasmissione con Marco Zamperini prima di salutarlo. Chiediamo a Christian, ma anche a Marco. Christian, la pubblicità non è sufficiente per pagare tutto ciò che serve per fare funzionare Facebook? Ma ti dico, ci ho pensato in questo momento di pausa a questa domanda e non ho una risposta, non ti saprei dire. Perfetto, sinceramente. Marco. Ma allora, la pubblicità non ripaga da sola i costi di esercizio di Facebook, che come diceva l'ascoltatore, anche senza fare troppo, facendo i conti, sì, in maniera anche grossolana, è evidente che sono molto alti. Però non dimentichiamo che i profitti da pubblicità sono solo una parte dei profitti di Facebook. Facebook ormai ha costituito un ecosistema che è fatto di applicazioni, pensiamo soltanto ai social game, ad esempio, è fatto di accordi con gli operatori di telefonia, soprattutto di telefonia cellulare, è fatto da grandi accordi di marca, è fatto da grandi accordi con le istituzioni. Vi ricordo che, ad esempio, il discorso di insediamento di Obama è andato live su Facebook, tra gli altri canali, ovviamente, non in maniera esclusiva, no? E ha avuto uno share superiore a quello che ha avuto la CNN, no? Non dimentichiamo che Facebook è un'azienda globale, per cui è vero che le revenues da pubblicità sono relativamente basse in Italia, sono già dei volumi interessanti sì, sicuramente negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Ad esempio Daniela scrive, tanti soldi a Facebook arrivano sicuramente da giochi tipo Farmville. C'è un sacco di gente che io vedo anche qua nei corridoi che gioca Farmville e paga. Ecco per darti un termine di paragone, tieni conto che i social game generano fatturato per circa 20 miliardi di dollari oggi, quindi gente che compra fondamentalmente beni virtuali, no? Mentre tutti quelli che vanno al cinema, per fare un termine di paragone, consumano beni reali, bibite e popcorn tipicamente, per circa 2 miliardi e mezzo di dollari, no? Quindi 10 volte di meno, esatto, no? Quindi stiamo parlando di numeri importanti, sì, sì, sì, no? Ovviamente i soldi che vengono dai social game non vanno solo in tasca a Facebook o ai vari mediatori, vanno anche in tasca giustamente agli sviluppatori. Comunque quello che diciamo, ha sollevato la domanda che ha fatto Gianmarco, che ci ha telefonato da Monza Brianza, è un tema interessante, tant'è che su internet io ho letto molti articoli in questi giorni, molti si domandano quali siano e come siano strutturati gli accordi economici tra Facebook e tutti i partner. Abbiamo citato Spotify, ma negli Stati Uniti ci sono tanti altri partner che hanno siglato accordi. C'è un altro Gianmarco che però chiama da Forlì. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre una domanda. Sotto certi aspetti Facebook, che attendibilità può avere in alcuni settori? Ad esempio parlo in quello turistico alberghiere, noi assistiamo a certi albergatori, strutture ricettive che si autocensiscono, si fanno delle recensioni positive. Ci sono concorrenti che ce l'hanno con il collega vicino che le fanno recensioni negative. Questo sputtana, scusate il termine, il mercato non è veritiero, non rende attendibile un po' poi tutto il sistema, perché è importante Facebook, ma sotto certi aspetti se non ci sono dei controlli molto seri corriamo il rischio di fare un bordello alla fine. La domanda è chiara, io non sono per i controlli perché la rete si autocontrolla in qualche modo, penso che Christian possa rispondere a questa domanda. Sì, sì, sì, assolutamente condivido con te, ha a che fare con il potere della massa, nel senso quando abbiamo i volumi, quando ci sono i numeri a dare risposte, le persone che fanno risposte insinuanti vengono dimenticate, nel senso quando c'è volume, il volume dà la verità. Ed è marginale quello che sono le cose che cedono. Sì, diciamo che se un albergo ha due recensioni, magari qualche dubbio ce lo facciamo venire, se ne ha 8.000, no. No, e poi comunque appunto il tema è la saggezza della folla, no? Quando appunto sono in gioco grandi numeri e soprattutto come avviene nei social media, quando sono in gioco persone che mettono la loro faccia, la loro identità reale, no? Non dimentichiamo che siamo nella seconda fase di internet, no? La gente ha interesse ormai a crescere la propria reputazione come individuo, a presentare la propria faccia, a dare il proprio nome, no? È vero che ci sono alcuni network sul turismo dove si danno commenti anonimi e sono molto sporchi, no? Sono molto inquinati. Il social network, invece, visto che io tendenzialmente ritrovo nel social network quelli che sono i miei amici nel mondo reale, come dire, sì, previene questo fenomeno. Certo, comunque, no? Conferma a proposito di alberghi, ad esempio io trovo TripAdvisor un ottimo strumento e non sbaglia quasi mai. Assolutamente. Poi dipende anche, diciamo, se tu guardi i commenti dei tedeschi, magari i tedeschi intendono gli alberghi in un altro modo rispetto a noi, ma insomma cambia poco. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Christian Esser, che lasciamo, puoi goderti il sole di Amsterdam, Christian, grazie di essere stato con noi. Grazie Enrico. A presto. Non abbiamo più ascoltatori, giusto? No, abbiamo esaurito, cioè anche Gianmarco, che ancora lo vedo lampeggiare, non c'è più. Abbiamo risposto ad esempio con questa trasmissione anche a quanto valore ha Google Plus. Non ne abbiamo assolutamente parlato perché interessa pochissima gente. Diciamo che nel mondo, abbiamo un minuto, nel mondo, almeno attualmente, a proposito di Facebook, quello che conta, cioè a proposito di social network, quello che conta è Facebook, poco altro. Certamente, anche se c'è spazio per tutta una serie di social network verticali, specializzati per esempio sul food, sul travel, sulla fotografia, che trovano comunque le loro nicchie. Ricordo uno tra tutti, Foursquare, che è il più diffuso network di geolocalizzazione volontaria, che tutti gli analisti prevedevano sarebbe morto rispetto al rilascio di Facebook Places, e invece no, è morto Facebook Places. No? Sì. Quindi la buona notizia è che è vero che è molto difficile fare un altro Facebook, però ad esempio su alcune funzionalità specifiche esatto, è possibile competere. Molto interessante. Concludo con una cosa che mi ha ricordato Marta Cagnola, che ci sta ascoltando, che ci dà un po' il là di com'è diventato Facebook. Una volta gli snob dicevano I don't even own a TV, non ho nemmeno la TV, tanto per dire insomma, certo, quanto sono snob. Oggi si potrebbe dire, alcuni dicono non ho nemmeno Facebook. Ed è un problema loro. L'ultima volta che ho detto questa cosa mi hanno scritto in 8000 dicendo accusandomi di mille cose. No, ma cose. Come con i telefonini, come con qualunque tecnologia. Sì. Dunque, abbiamo finito il nostro tempo. Grazie a Marco Zamperini per essere stato con noi. Buon grazie lavoro, Enrico. Buon divertimento. E ringrazio anche Pietro Lacorte, che si è occupato della parte tecnica in modo ottimo come sempre. E grazie anche ad Alessandro Balia, che è rimasto in regia per aiutarci. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo via podcast oppure su Facebook a questo punto, oppure la prossima settimana su Radio 24. 2024. 31 seconds and we're going for auto.